La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua puntuali, come sempre, come ogni fine settimana, qui su Radio 24 a parlare di cinema. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è l'ora di cinema di Radio 24, La Rosa Purpurea, una settimana di passaggio fra maggio e giugno, insolitamente piena di proposte e piena anche di contenuti cinematografici interessanti. Andiamo subito a dare un'occhiata al punto di partenza, alla classifica dalla quale partiamo, con gli incassi dello scorso weekend, nei quali in testa c'è Men in Black 3, che guadagna subito la vetta della classifica, incassa più di 2 milioni nel weekend. Al secondo posto retrocede, ma buon andamento tutto sommato in Italia, per Dark Shadows di Tim Burton. Terzo posto per l'esordiente Cosmopolis di David Cronenberg, film che cresce nel sentire di chi lo ha visto, e, come abbiamo detto settimana scorsa ampiamente, film un po' difficile, con il quale non è facile, non è immediato mettersi in contatto, ecco, però poi rimane molto. Ciò nonostante, temevamo che insomma fosse qualcosa di un po' troppo duro per il pubblico di Pattinson e per il pubblico del cinema estivo, diciamo così. 330.000 euro, terzo posto, ma insomma le cose forse dovevano andare diversamente. Poi al quarto posto American Pie, al quinto Quella casa nel bosco, eccetera eccetera, con gli Avengers ancora in classifica, pensate, al sesto posto, 17 milioni e mezzo di incasso per il film dei supereroi riuniti in cooperativa. Allora, questo è il punto di partenza. I contenuti invece della nostra trasmissione nei titoli di testa. La diva che voleva essere amata. Ritratto di Marilyn nel film omonimo interpretato da una Michelle Williams da Oscar. L'indimenticabile settimana di un giovane appassionato di cinema al fianco della star più desiderata sul set di un film di Laurence Olivier. Gli alieni invadono le periferie. Dopo il successo di Locarno, arriva nelle sale Attack the Block, storia di un manipolo di adolescenti alle prese con gli extraterrestri. Fantascienza al servizio del racconto del proletariato urbano contemporaneo. Un po' Truman Show, un po' favola ecologista. È Lorax, animazione in 3D ambientata in un mondo completamente artificiale, dove la felicità è un dovere. Ma un ragazzo e una ragazza rivoluzioneranno tutto. Per un albero. Con Danny DeVito che mette la sua voce anche nella versione italiana. Ryan Gosling e Kirsten Dunst, protagonisti di Love and Secrets. Ispirato a una storia vera, il film racconta la misteriosa scomparsa della bella e giovane moglie di un rampollo della borghesia immobiliare di New York. Galleria di personaggi col destino segnato da traumi e follia. Avete scoperto una specie sconosciuta alla scienza, col sospetto che non sia di origine terrestre, e gli avete sfondato il cranio. Piovono giù. Cosa piovono? Quei cosi. Sembra un meteorite. E non è come quell'altro. Questo è 3 volte più grosso. Che cos'era? Chi è l'alieno che invaderebbe un quartiere schifoso come questo? Ci hanno trovato. Come hanno fatto? Ci sono 160 porte nel blocco. Andiamo a recuperare le armi. Li facciamo a pezzi tutti. Vai, vai. Qualcuno sa dirmi che cosa sta succedendo? Le suggestioni sonore di Attack the Block per cominciare la nostra trasmissione. Ancora una volta è un periodo proprio in cui il cinema indipendente, di taglio soprattutto giovanile, affronta in un certo senso la fantascienza portandola molto sulla terra, intanto perché costa di meno a livello produttivo e poi anche perché forse apre un nuovo modo di spiegare le reazioni umane, soprattutto di una, appunto, di una generazione rispetto all'estraneo, rispetto al particolare, rispetto al peculiare, appunto, della cosa spaziale. Era capitato recentemente con Chronicle, ricorderete, ne avevamo parlato, è capitato anche in Attack the Block, che Locarno aveva molto impressionato, aveva molto divertito, e che adesso arriva nei cinema italiani. Noi siamo a parlarne con Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi e che saluto. Ciao Boris. Ciao Franco e ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, sono d'accordo, non è una questione generazionale, probabilmente anche una questione di classe sociale. Noi siamo abituati a vedere gli alieni che quando invadono il mondo si scelgono, insomma, luoghi da cartolina, che sia la Statua della Libertà, la Torre Eiffel, insomma cercano di distruggere le glorie nazionali. Non siamo abituati a vedere degli alieni che scelgono la periferia come terra di conquista, ovvero il blocco, vera e propria. E qui la grande intenzione di Joe Cornish è quella, cioè mettere la fantascienza anche un po' gretta, insomma, questi alieni sono molto buffi, sembrano dei barbapapà in acido, sono una citazione di un videogioco anni 70-80, finiscono in periferia, e diciamo in periferia non sono così teneri come nei centri storici della città, insomma reagiscono anche a mani nude, e inizia questa battaglia di quartiere che poi non è che sembra tanto diversa per esempio da quella che si è vista nelle banlieue, e si gioca tutto così su metafora, in qualche modo chiaramente il genere è fantascienza, il genere la fantascienza da sempre è stato un veicolo anche politico e sociale per raccontare altro, e qui è assolutamente evidente. Al tutto va aggiunta una grande dose di ironia, di politicamente scorretto, che sicuramente non guasta, e quindi io devo dire che lo promuovo assolutamente come film, perché mi sembra una delle belle intuizioni degli ultimi anni nel genere e non solo. Ricordiamo tra l'altro che rappresenta appunto l'esordio alla regia di Joe Cornish, co-sceneggiatore di Tintin di Spielberg, insomma, e quindi sicuramente c'è una mano interessante anche dietro questa visione della che più che una parodia forse dell'invasione aliena è quasi una storia più da Tutto in una notte, no? Cioè, l'avventura forse prevale rispetto a proprio alla questione fantascientifica, però come vedete ancora una volta, vuoi con grandi budget, Aliens and Cowboys dello scorso anno, sempre a Locarno, sembrava il momento giusto, vuoi invece con budget magari un po' più ridotti, anzi molto più ridotti come in questo caso, come diceva anche Boris, è un momento in cui questo elemento dell'altro, dell'alieno, viene messo a confronto appunto con strati generazionali e sociali soprattutto della nostra società, con i quali l'interazione diventa particolarmente interessante, in questo caso anche molto brillante, molto fresca, molto divertente. La rosa purpurea. Senti, mamma, per caso sai se c'è un posto da qualche parte dove potrei trovare un albero vero? E sai che ti dico? Devi trovare Wansler. Wans che? Mamma, non è proprio il momento di una delle tue, sai, magiche favolette. E allora avete sentito quello che è un po' la missione che si prospetta di fronte al giovane protagonista del film con cui vogliamo aprire questa seconda parte della Rosa Purpurea. Stiamo parlando di Lorax, oppure Lorax, chi lo sa, visto che c'è una mano francofona e francese molto forte in questo film d'animazione in 3D, un film molto, molto particolare, molto carino, interessante e come dire, molto ecologista anche nel suo essere favola, un film che racconta appunto di un mondo del futuro, una sorta di Truman Show eterno, nel quale non ci sono più alberi, non ci sono più segni della natura veri, diciamo così, non si vede più neanche la terra, è tutto finto, tutto di plastica, tutto un enorme set dove si deve vivere una vita felice. In questo appunto ricorda un po' la scenografia, la ricorderete, del Truman Show. Ebbene, in questo ambito il giovane protagonista, appunto, per diciamo così amore, per amore di una ragazza che vorrebbe avere un albero di quelli come c'erano una volta, si incaponisce, si intestardisce e decide di provare a cercare il modo, proprio chiedendo alla nonna innanzitutto, che depositaria dell'epoca in cui gli alberi davvero c'erano, cercare il modo di trovare l'ultimo seme che potrebbe far rinascere gli alberi. Ma poi perché ti interessano tanto gli alberi? Perché non sei come gli altri ragazzi che fanno la breakdance, si mettono i jeans scampanati e giocano a Donkey Kong? Sì, certo, certo. Sì, non lo so, è solo che, ecco, pensavo che sarebbe fico avere un albero, no? Ah, è per una ragazza, vero? Che? No! Davvero? Perché quando uno fa una stupidaggine una volta, beh, è perché è un ragazzo, ma se fa una stupidaggine due volte, di solito è per far colpo su una ragazza. E lei non è una ragazza qualsiasi, è una donna. Va al liceo e adora gli alberi. Boris Sollazzo, allora, Lorax, il guardiano della foresta, ho trovato alcuni elementi di originalità dentro questa storia, Dr. Seuss, ricordiamo, quindi Grinch, quindi gatto col cappello matto, eccetera, eccetera, cioè un classico della letteratura per ragazzi oltreoceano che viene portato al cinema per la quarta volta in tempi recenti con questo Lorax. Però dicevo, elementi di originalità nella storia, favola ecologista, ma anche molto molto morale e soprattutto molto ben realizzata. No, assolutamente sì, è un film che a mio parere trae molto da questo autore, che è uno degli autori non solo più amati per quanto riguarda la letteratura infantile, appunto il dottor Seuss, ma anche più osteggiati. Diciamo che la sua educazione all'ecologia e al rispetto dell'ambiente ha fatto paura a molte multinazionali americane in maniera pesante, tanto da essere addirittura escluso dai programmi scolastici per lungo tempo perché è considerato sovversivo. E Lorax in fondo è un po' sovversivo, riprende quel tipo di cinema, diciamo, per l'infanzia, ma con contenuti alti che possiamo ravvisare anche nel Wall-E della Pixar, con cui condivide, diciamo, lo spirito, anche se chiaramente è completamente diverso poi nella struttura. Non è forse una delle storie di questo autore più felici, ma di sicuro appunto la realizzazione è assolutamente positiva, molto coerente con il racconto, molto attenta tecnicamente, la storia è comunque straordinariamente efficace e quindi è impossibile non empatizzare con questi protagonisti, e alla fine il sapore della storia è quello che purtroppo abbiamo in bocca tutti, cioè il rischio che un mondo così non sia più frutto di un futuro lontano ma di un futuro molto più prossimo di quello che vogliamo riconoscere, e quindi più che rischiare di essere formativo rischia di essere una guida alla sopravvivenza per i nostri figli o per noi stessi. In ogni caso poi appunto a mio parere qui c'è un di più che è Danny DeVito, che riesce a far recitare, riesce a far vivere questo Lorax, che insomma dimostra di essere un mattatore nonostante l'età che avanza. Assolutamente, assolutamente. C'è un, ricordiamo, Marco Mengoni dà la voce al giovane protagonista, ma Danny DeVito anche nella versione italiana dà la voce a Lorax, a questo spiritello, diciamo così, della foresta, in maniera molto molto divertente nel suo italiano italo-americano abbastanza strano. Allora, questo è Lorax, il guardiano della foresta. A questo punto invece noi apriamo la prima finestra sul game di questa settimana. Dobbiamo giocare insieme come sempre per provare a vincere due copie, una per il sabato e una per la domenica, in Blu-ray di questo film, se ovviamente lo indovinerete. Per facilitare le vostre esigenze spedizionarie vorrei ricordarvi che i pacchi vanno incartati correttamente. Questo è il classico esempio di torna a casa e rifallo da capo. Lei sa a cosa mi riferisco, signora Rigushin? E voi sapete a cosa si riferisce questa clip? Che film è? Titolo, vostro indirizzo, la rosa purpura @radio24.it. Più tardi avremo un altro paio di clip misteriose. Una storia di passione e football. Testimoni attendibili e meno attendibili. Amori impossibili e sogni sproporzionati. Questo è un film di cui mi sono particolarmente innamorato, perché anche nel trailer avete sentito c'è una, come dire, proprio una plomb di certezza. Stiamo parlando del Mondiale dimenticato, a plomb che poi rimane per tutto il film, e ancora qualcuno si sta chiedendo se questo benedetto Mondiale del 42 in Patagonia fu disputato o no, se la storia ufficiale ci ha detto o non ci ha detto la verità per tutti questi anni, sostenendo che dopo il Mondiale del 38, vinto tra l'altro dall'Italia, il tutto si è fermato fino al 50 causa bellica, causa guerra, e invece appunto un documentario che forse non è del tutto un documentario, che si intitola appunto Il Mondiale dimenticato, presentato a Venezia, di cui noi avevamo parlato qualche settimana, forse un paio di mesi fa, perché era passato a Milano all'interno di una rassegna sul Mockumentary, e adesso arriva finalmente in sala per tutti. Ebbene, questo documentario, Il Mondiale dimenticato, asserisce cose contrarie. Forse un Mondiale c'è stato, forse non ufficiale del tutto, si è giocato nel 42 2002 l'hanno deputato a questo mondiale in Patagonia, in terra di Patagonia, con nazionali, diciamo così, non del tutto ufficiali. E allora noi vogliamo far sostenere la tesi a Lorenzo Garzella, che con Filippo Macelloni è regista del mondiale dimenticato. Ciao Lorenzo, benvenuto alla Rosa Purpurea. Buonasera a tutti. Allora, questo mondiale, io da quando ho visto il film, da quando l'ho raccontato agli amici, continuo a chiedermi: ma si è giocato o non si è giocato? Ma cos'è vero e cosa non è vero in questo film? Questa è una domanda che si fanno in tanti vedendo il film. È una domanda che noi vogliamo in qualche modo, preferiremo in qualche modo dribblare, perché quello che ci interessa più di tutto è che la gente che lo veda da una parte possa lasciarsi andare alla storia e divertirsi e speriamo anche sentirsi coinvolta e interessata, dall'altra però è un film che lascia allo spettatore un ruolo molto importante, cioè il grande ruolo di tenere comunque allo stesso tempo in cui si lascia andare anche le antenne dritte, perché sta a lui decidere dove sta il confine fra la realtà e l'immaginazione. Forse perché è un confine che ognuno di noi può mettere dove vuole, no? Vedendo un film così. Sì, secondo me è un confine che ognuno può mettere dove vuole, che dopo se vuole può approfondire, ed è un confine che diventa meno importante della storia stessa. Perché storia, è una storia in cui, esatto, è una storia proprio molto molto ricca, perché si parla di operai che costruiscono dighe e ferrovie in Patagonia, di tante nazionalità, si parla di indios, si parla di amori non corrisposti, si parla anche forse un po' di eroismo, e lo si fa partendo tutto in flashback dall'oggi, da un giornalista argentino che in questa terra, dopo il ritrovamento di uno scheletro in un parco archeologico, insomma, comincia a capire di chi era quello scheletro e che cosa avrà avuto a che fare, e soprattutto quale grande verità rispetto al mondiale dimenticato poteva rivelare una bobina che questo scheletro aveva lì di fianco. Lorenzo, alle spalle c'è un racconto di Osvaldo Soriano. Quanto avete pescato pienamente dentro la parola del grande scrittore? Sì, noi abbiamo letto un racconto di Osvaldo Soriano che si chiama Il figlio di Butch Cassidy, che racconta le memorie di uno zio matto, Casimiro, che avrebbe fatto il guardaline a fianco del figlio, appunto, del bandito americano Butch Cassidy, che era scappato dagli Stati Uniti in Patagonia. Da questo racconto siamo partiti sia letteralmente, cioè con un aereo siamo andati in Patagonia a vedere che c'era di vero o di finto, ma da lì poi abbiamo aggiunto un po' tutte le nostre passioni, quindi è un film che non parla alla fine solo di calcio, ci abbiamo messo la passione per le leggende, la passione per il viaggio, per la letteratura, per il cinema, e quindi è un film alla fine davvero ricco. Gianni Minà, che ci ha premiato al Festival di Bari un mesetto fa ormai, ha chiamato in causa García Márquez, che senz'altro è un confronto assolutamente altissimo e inarrivabile, ma devo dire che ha colto secondo me un aspetto importante, cioè questo aspetto che un po' ci lega alla tradizione sudamericana del realismo magico, in cui appunto la memoria, l'oralità, il tramandare racconti in qualche modo col tempo travalica la realtà e si perde, no? Si tinge sempre di più di aspetti leggendari, i racconti diventano sempre più mirabolanti, sempre più complessi. Il nostro film fa un po' questo, cioè parte dalla realtà e va a sfumare nei racconti leggendari. Allora, voglio ricordare l'appuntamento, Lorenzo, per il Mondiale Dimenticato, che esce da questa settimana, ma poi settimana prossima amplierà la sua presenza. Allora, raccontiamo come e dove possono vedere il film i nostri ascoltatori. Allora, il film dal 1 giugno è a Torino, Cinema Fratelli Marx, e a Roma, Cinema Nuovo Aquila, e poi dall'8 giugno avrà la sua uscita nazionale in 7 città, quindi si aggiungeranno Milano, Padova, Ancona, Pisa e Bari, e speriamo poi invece dalla settimana successiva ancora di ampliare ancora di più il numero delle copie e arrivare a una quindicina, una ventina di copie, sperando bene. In pieno svolgimento degli europei. Grazie a Lorenzo Garzella, co-regista del Mondiale Dimenticato. Insieme a Filippo Macelloni. Grazie a tutti, buonasera, grazie mille, arrivederci. La Rosa Purpurea. When love goes wrong, nothing goes right. This one thing I know. Love goes wrong, a man takes flight, and women get a pity. E la La voce che sentite è quella di Michelle Williams, che però insomma interpreta evidentemente Marilyn Monroe, il mito dei miti del cinema hollywoodiano al femminile. Marilyn, il nuovo film arriva nelle sale italiane tradendo il titolo originale, che diceva e spiegava ancora una volta molto di più e molto meglio l'oggetto del film. Il titolo originale è My Week with Marilyn, la mia settimana con Marilyn, ed è questo proprio che racconta il film. Inizio dell'estate del 56, Marilyn Monroe arriva in Inghilterra per la prima volta in luna di miele col marito, il mitico drammaturgo Arthur Miller. La Monroe era in Inghilterra per girare un film, Il principe e la ballerina, che doveva interpretare al fianco niente meno che di Sir Laurence Olivier, leggendario attore teatrale cinematografico inglese. Quell'estate il 23enne Colin Clark per la prima volta nella sua vita va su un set cinematografico. È il suo grande sogno provare a lavorare nel cinema. Comincia dai gradini più bassi, lui che è appena laureato a Oxford, e va appunto a lavorare sul set del Principe e la ballerina. La grande star, il mito, Marilyn Monroe, il giovane ragazzo che l'adora e adora il cinema, si incontreranno e finirà per scoccare qualcosa fra di loro. Signori, è con immenso piacere che vi presento una donna che chiaramente non ha bisogno di presentazioni. Una grandissima attrice per la prima volta in visita a Londra. Marilyn, è vero che a letto indossa solo profumo? Oh. Tesoro, visto che siamo in Inghilterra, indosso solo lavanda inglese. Che voglia di vederla. Signorina Monroe. Marilyn non è pronta. Scusa, ho una faccia orribile. Quei pochi giorni in cui un mio sogno è diventato realtà. Hai paura di me, Colin? No. Bene, perché mi piaci. Tu piaci a Marilyn Monroe? Ma smettila. Marilyn Monroe che canta nella vasca da bagno, sogno di molti. E avete sentito un po' il clima del film, film tratto poi dalle memorie vere di Colin Clark, che 40 anni dopo raccontò quell'esperienza in un'autobiografia, appunto, su quella settimana passata al fianco, e non solo al fianco, di Marilyn Monroe. Boris Sollazzo, un film biografico, non un biopic, però un film che sa entrare, a mio modo di vedere, nella pelle e nell'anima di tormentata di Marilyn Monroe. Racconta proprio questo tormento, lo fa grazie anche all'interpretazione, a mio modo di vedere, ottima di Michelle Williams, che non scimmiotta Marilyn, anzi giova al film una certa differenza evidente anche in termini somatici, ma la interpreta, cerca di catturarne i tormenti di un'anima irrequieta e di metterli al servizio della cinepresa. E questo è il successo forse di un film che sa essere in certi momenti divertente, in altri molto profondo, ma che ci restituisce l'immagine di una diva che forse non voleva del tutto essere diva. No, pienamente d'accordo. Tra l'altro, secondo me Michelle Williams probabilmente ha in sé, come diciamo, anche grandi attori hanno, grandi registi hanno capito, penso diciamo alla piccola parte che ha in Shutter Island, ha in sé quel tipo di inquietudine e bellezza che era tipica di Marilyn Monroe, cioè la capacità di essere meravigliosa e poi allo stesso tempo cupa e pericolosa. E sono d'accordo con te che è una grandissima interpretazione. Secondo me la regia non è straordinaria, mi sembra veramente che l'unica scelta giusta del regista sia stata scritturare Michelle Williams e farla recitare in questa maniera. Lei è meravigliosa e favolosa nel raccontare questa diva, che insomma era facilissimo rendere caricaturale, perché è diventata un'icona, è diventata una specie di mascotte, soprattutto dovuto all'addio precoce che ha dato alla vita. Ed è intelligente anche l'idea di utilizzare questa settimana, cioè uno spaccato di vita in uno dei momenti più difficili, cioè quando Laurence Olivier la mette alla prova e con i suoi pregiudizi però non le consente mai di entrare nel film, e dall'altra parte c'è questa donna che non riesce mai a fare pace con la vita, che continua ad essere la peggiore nemica di se stessa, con i suoi vizi, con i suoi ritardi, con il suo grande talento annacquato in un carattere forse troppo fragile. E devo dire che poi alla fine questa inquietudine, questa irrequietezza, questa sensibilità e anche queste contraddizioni fastidiose vengono restituite dal film, che ti sembrano far rivivere Marilyn Monroe non attraverso una fotocopia sbiadita di un giornale, ma attraverso una delle più vitali interpretazioni che ho visto recentemente. Un'interpretazione, Boris, che arriva in una settimana in cui arriva in sala anche un altro film di cui vogliamo parlare. Ce ne sono tanti, quindi dobbiamo correre un po' questa settimana. Parlo di Love and Secrets. Tu hai detto appunto Michelle Williams nei panni di Marilyn Monroe. Io aggiungo Kirsten Dunst nei panni della protagonista Katie del film con Ryan Gosling, appunto Love and Secrets, un'altra delle novità che arrivano al cinema in questo fine settimana. Me le vedo bene le due concorrere per l'Oscar della del prossimo mese di febbraio, perché anche l'interpretazione e anche la prova attoriale di Kirsten Dunst è di grande livello in un film che vuole essere una sorta di thriller biografico, che in realtà però tradisce un po' in quanto a tensione. Raccontiamo brevemente la storia, ispirato a un famoso caso di cronaca nera, forse il più famoso caso di persona scomparsa a New York, appunto Love and Secrets. Il protagonista della vera storia, Robert Durst, qui viene chiamato Marx di cognome, si fa un riferimento che non è esattamente quello, ma insomma è rampollo di una grande famiglia di mobiliaristi, anche abbastanza spregiudicati, diciamo così. Sposa questa bellissima ragazza incontrata per caso, vorrebbe forse una vita più tranquilla in provincia e nella periferia americana, ma il padre, un Frank Langella davvero ottimo, mette molta pressione, lo vuole nell'azienda di famiglia, lo vuole portare avanti gli affari del clan. Il protagonista, appunto Ryan Gosling, accetta di tornare a New York. Qui qualcosa si spezzerà fra i due, la non volontà di avere un bambino inciderà in maniera abbastanza decisiva, e allora a questo punto le cose cominceranno a precipitare, fino a quando Katie non scompare. E pensate, nella verità non c'è mai stata una prova che fosse stato il marito a farla scomparire, così anche nel film, però certo da lì parte anche una deriva psichiatrica del protagonista che porterà a conseguenze piuttosto estreme. Non ho detto questo. Hai detto che non potevi, che non era possibile, che c'era qualcosa che non andava in te. Non l'ho detto. Oh, sì, invece. Che differenza fa? Cambia completamente le cose. Senti, noi abbiamo una casa a Manhattan, un cottage in campagna, la Mercedes. Non mi importa di queste cose. Ah, no? Mi importa di te, David. Io voglio il nostro bambino. David! Se non ti importa, torniamo nel Vermont. Va bene, torniamo nel Vermont, d'accordo. Faremo tutto quello che vuoi. Ti prego, David. Io non voglio che cresca come te. Che sai della mia infanzia? Non sono cieca. E allora questo era proprio uno dei momenti abbastanza, diciamo, più drammatici, questa rivelazione di un'infanzia da parte del protagonista maschile, appunto, non particolarmente convincente. Così come, devo dire, Boris, il film in sé non è tanto per gli attori, Ryan Gosling è uno degli attori del momento, di Kirsten Dunst ho già detto tutta la mia ammirazione, manca però un po' davvero di spinta, di tensione all'interno di questo che dovrebbe essere un thriller poi alla fine. Sì, perché prevale la parte sentimentale. A mio parere lui invece, Andrew Ciarecki, che è tra l'altro un ottimo documentarista, per far capire la sua sensibilità verso certe storie, lui ha fatto il bellissimo documentario Una storia americana, Capturing the Freedmans, che insomma era un ritratto spietato della quotidianità americana. Qui ci ritroviamo una Kirsten Dunst che è una sorta di Lady Diana di questo immobiliarista, insomma una donna forse troppo indipendente, troppo autonoma, anche troppo vitale per un uomo che invece ha rinchiuso quell'infanzia in una freddezza che poi diventa distanza. Però qui la verità è che al centro di tutto sono i secrets, sono questa fuga del 1982, questa uccisione del 1982, questa scomparsa del 1982, non si sa. È tutto là il segreto del film, e invece sembra che Andrew Ciarecki tenda a cercare la parte più sentimentale, la parte più melodrammatica, che si esaurisce molto presto, cioè si esaurisce in questo rapporto che è molto difficile. Dopo la grande passione iniziale, dopo il grande amore iniziale, iniziano i problemi tra due mondi troppo diversi e tra due modi di concepire l'amore troppo diversi, e quindi si rifugia poi, mi dispiace dirlo, nella banalità di una storia raccontata fin troppe volte al cinema. Allora io voglio far sentire la seconda traccia misteriosa per il nostro DVD game di oggi, sentiamo. La testimone dice che i delinquenti cercavano la luce di... Zarda? Sì, cos'è? Ma non ha senso. La luce non è sulla Terra. Abbiamo sistemato la faccenda tempo fa. La Rosa Purpurea chiocciola radio24.it. Diteci di che film si tratta per provare a vincere il Blu-ray. Proprio di questo film più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Così come abbiamo l'ultima possibilità, davvero un minuto, Boris, per ascoltare 20 secondi del trailer e dire proprio una cosa lapidaria sul nuovo film con Mel Gibson, che è molto meno brutto di quello che ci si poteva aspettare. Viaggio in Paradiso. Salve ragazzi e ragazze. Non c'è niente di peggio che un clown triste. A parte un clown che ha un'emorragia interna e tossisce sangue sul tuo denaro. Beh, la prospettiva di una vacanza estiva al sud con un bel bottino era definitivamente tramontata. Ma come diceva sempre la mia anziana mamma, vaffanculo ai perdenti. Boris, 30 secondi per raccontare un Mel Gibson che non t'aspetti. Mel Gibson che non ti aspetti, perché francamente dopo The Passion Apocalypto uno pensava che avesse preso una deriva ormai irrecuperabile, invece qui recupera, diciamo, in maniera proprio lapidaria il personaggio di Arma Letale, in questo uomo che fugge, viene arrestato in Messico e cerca, insomma, di fuggire di nuovo. E c'è tutta l'autoironia di Arma Letale, c'è un Mel Gibson molto affascinante. Peccato per il finale, che invece diventa un action movie molto cafone, che, in cui sarebbe stato forse meglio Steven Seagal. Però è sicuramente, per gli amanti del primo Gibson, è sicuramente un bel tuffo nel passato e lo consiglio. E questo è allora Viaggio in Paradiso. Grazie Boris Sollazzo, appuntamento la prossima settimana. Grazie a te, alla prossima settimana. La Rosa Purpurea. Eccoci qui, allora, a parlare di cinema da vedere in casa, nella parte finale del nostro programma, come sempre, con le segnalazioni del settimanale Film TV, che è andato un po' a guardare dentro i palinsesti della prossima settimana. Abbiamo scelto, come sempre, due film imperdibili, tra i tanti imperdibili che si possono vedere gratis in televisione, anche grazie alla grande offerta del digitale terrestre, e ne parliamo con Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco e ben ritrovati all'appuntamento con le nostre segnalazioni. Abbiamo scelto due film molto molto diversi, come ci piace fare spesso, fra di loro, e cominciamo con quello che è diventato presto un classico di un cinema d'azioni e polizia, potremmo dire. Si tratta di Strade Violente di Michael Mann. Domenica 3 giugno su Rai 4 alle 23:20, Strade Violente, l'esordio cinematografico di Michael Mann, è datato 1981 ed è già una riscrittura personalissima del dramma di gangster incentrato su un luogo comune del noir, ovvero non ci si redime mai dal male. Su questo stereotipo Mann gira un noir dal ritmo astratto, dilatato, improvvisamente accelerato, con esplosioni di violenza crudissime, dove ciò che conta è ciò che regala nuovi significati, nuove emozioni, e lo stile, in quella dinamica tra cinema di genere classico e rivisitazione d'autore moderna che ha reso imprescindibile questo autore. E questo è allora il primo film, il primo consiglio di Film TV, Strade Violente di Michael Mann, domenica 3 giugno su Rai 4 alle 23:20. Tempi più recenti, ambientazione più lontana per un film di Robert Redford che diede un taglio, diede un'occhiata, un suo punto di vista sullo star system americano attraverso Quiz Show. Sì, lunedì 4 giugno, Quiz Show su Rai Movie alle 21. Siamo nel 1958 e il quiz televisivo della NBC ha un campione in carica di origine proletaria, che non piace però allo sponsor e viene pagato per sbagliare le risposte e farsi sostituire da un aitante figlio di un premiatissimo poeta. Redford, che nel 1959 aveva partecipato a un quiz televisivo, gira un perfetto film di denuncia contro le manipolazioni di massa, classico e progressista, dove il sogno americano si frantuma contro le logiche del capitale e fa venire al pettine nodi come il consumismo, il cartismo, il confronto tra classi e generazioni. Tanti obiettivi, tutti perfettamente raggiunti da uno dei migliori film di Redford, con un cast assolutamente strepitoso in cui figura Martin Scorsese. E allora questo era Quiz Show di Robert Redford, lunedì 4 giugno Rai Movie alle 21. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Grazie a te Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora, questi erano i consigli degli amici di Film TV per vedere buon cinema anche in casa la settimana prossima. Noi siamo arrivati alla terza e conclusiva traccia del game di oggi. Ger, è un vero delitto che abbiano tenuto un genio come te chiuso in gabbia. Il loro agente Lupetto J mi ha beccato mentre mi ciucciavo l'ozono per venderlo al mercato nero. Sono suscettibili sul suo riscaldamento. Mi serve un'astronave, una cosetta che viaggia almeno a 300 volte la velocità della luce. Trovamela e ti darò quello che vuoi. Dammi J e siamo pari. Da favola. Mi dico solo una cosa, sul grande schermo e nel nostro quiz. Basta, non dico più niente. La Rosa Purpurea, @radio24.it, di che film si tratta? Vostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere il Blu-ray, l'edizione Blu-ray di questo film. La settimana prossima vi diremo chi è stato il fortunato, anzi chi sono stati i fortunati, così come adesso invece diciamo chi sono stati i fortunati della settimana scorsa, ovvero Luca Francesconi di Pistoia e Stefano Altamura di Rozzano, che avevano indovinato questo film. Posso far notare che il camino nel salotto di Baker Street ha bisogno di una bella spazzata. Sapevi che la carrozza da Lolo su cui sei arrivato aveva una ruota danneggiata? Sì, alla sinistra. Ed è palese per l'intelligenza più rozza che hai acquistato recentemente un nuovo arco per il tuo violino. Stesso arco, nuove corde. Si trattava dell'irresistibile Sherlock Holmes di Robert Downey Jr., precisamente il secondo capitolo Sherlock Holmes, gioco di ombre. Abbiamo detto chi sono i vincitori, proviamo a capire meglio cosa c'è dentro questa edizione in Blu-ray, che è stata tra l'altro utilizzata come uscita per vedere anche insieme, poter comprare anche insieme i due film della nuovo inizio saga di questo nuovo Sherlock Holmes. Claudio Poffi è già con noi, ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, da Warner, l'edizione Blu-ray in alta definizione, che include anche il DVD e la copia digitale per rivivere le emozioni di immagine con qualità da sala cinematografica, l'audio ad alta risoluzione in inglese, naturalmente sul Blu-ray, e c'è il Dolby Digital in italiano, identico sia per Blu-ray che DVD. Gli extra sono veramente interessanti perché c'è la possibilità di seguire il film immagine nell'immagine con approfondimenti sulla lavorazione, ma ci sono anche gli storyboard, interventi di cast e troupe, ci sono vari focus sulla produzione, connessione rete e persino l'app da scaricare sul proprio cellulare. Vabbè, questo completa anche il multipiattaforma di questo Sherlock Holmes con cui abbiamo giocato la scorsa settimana. Festival di Venezia 2011, uno dei primi film che si sono visti, anzi il film d'apertura fu Lady di Marzo. Tu hai potuto fare i tuoi scoop perché io ti ho fornito sempre tutti i riscontri è delle vero, anticipazioni di tu mi hai aiutata po- molto, ma diciamola tutta. La vera ragione per cui l'hai fatto è che io scrivo per il Times, non perché siamo amici. Dammi ciò che voglio e io scrivo per te ciò che ti serve. Non è niente più di questo. Perché hai incontrato Duffy? Perché non vai a fare ok, ti vengo incontro. Lascia perdere Duffy. Com'è andata a Trappole Thompson? Me lo dici? Voglio passare quella voce. Sai quanto potresti danneggiarmi? Ma certo che lo so. Per questo lascio a te la scelta. Sarei finito. Scegliere non ti sarà difficile allora. Steve Myers è un giovane brillante esperto di politica e comunicazione che lavora per il governatore Mike Morris, uno dei due contendenti democratici alle primarie americane. Con una irreprensibile e virtuosa facciata, Morris sembrerebbe essere l'uomo giusto per una svolta radicale del grande paese. Stephen crede in Morris, ma scopre che una stagista dell'entourage è rimasta incinta proprio del governatore. Scivolerà lentamente verso una formazione negativa tra ricatti e cinismo che lo trasformeranno in uno spietato arrivista. Diretto, cosceneggiato, coprodotto e interpretato da George Clooney, questo notevole dramma mette in scena la giungla della politica americana contemporanea, raccontando ciò che accade dietro al sipario, tra debolezze, connivenze e corruzione. Edizione 01 Rai Cinema, DVD ma soprattutto Blu-ray, quest'ultimo di prestigio con una strepitosa qualità d'immagine, c'è una doppia traccia di TS ad alta risoluzione italiano-inglese, come extra commento di George Clooney assieme allo sceneggiatore Grant Heslov per tutto il film, focus sugli attori, uno su George Clooney e sul coinvolgimento nella produzione, c'è la genesi del film e la figura del consulente politico. E questo allora Lady di Marzo, è proprio la settimana di Ryan Gosling, anche qui fuori e dentro il grande schermo. L'ultima segnalazione è invece War Horse. Joy, ti presento Topthorn. Topthorn, lui è Joy. Decidete tra voi due chi è che comanda, capito? Se volete litigare, fatelo subito, perché una volta laggiù vi serviranno tutte le energie per combattere i trucchi. Con gentilezza, Perkins. Non voglio che si intristisca. Non ci sarà gentilezza in guerra, signore. In Inghilterra l'esuberante Poledro Joy viene acquistato da un agricoltore ricevendo l'addestramento da parte del figlio Albert, che stabilisce uno stretto legame col cavallo almeno sino a quando, allo scoppio della prima guerra mondiale, l'animale non verrà venduto a un ufficiale che promette ad Albert di restituire Joy a conflitto terminato. Per il cavallo sarà l'inizio di una memorabile e drammatica avventura attraversando i fronti della guerra, mentre Albert, raggiunta la maggiore età, si arruola volontario nella speranza di poterlo ritrovare. tra storie e romanzi, il racconto coinvolgente di un'amicizia molto speciale di un giovane e del suo cavallo, con uno Spielberg forse meno profondo rispetto al passato, ma ancora capace di sorprendere. Da Disney Buena Vista, l'edizione Home Video, DVD e Blu-ray, quest'ultimo di pregio, con traccia DTS ad alta risoluzione, non solo in inglese, ma fortunatamente anche in italiano. Come extra, l'incontro molto interessante del regista assieme agli attori per approfondire le tematiche del film. C'è anche un focus di 3 minuti sulla lavorazione. E questo era War Horse. Io ringrazio il nostro Claudio Pofi. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E con questo noi abbiamo chiuso la nostra puntata di questo primo weekend di giugno. Vi ricordo, domenica, puntata speciale da Trento, Festival Economia, dedicata in gran parte proprio all'economia, alle grandi storie di soldi e finanza raccontate al cinema, alle 15, domenica su Radio 24. Grazie a Giorgio De Luca che ci ha aiutato in redazione, a Pietro Lacorte alla console. Un saluto da Franco D'Assisti.